Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Due ragazzi gay in cerca di lavoro. Riporto qui di seguito una mail che ho ricevuto l'11 ottobre 2012. Si tratta di una bellissima storia d'amore che diffondo tramite Radio Progetto Gay dopo aver acquisito l'autorizzazione dell'autore, che ringrazio. Ciao Project. Ho letto su Progetto Gay delle storie veramente bellissime. La mia storia è molto semplice, ma penso che valga la pena di raccontarla. Ho 26 anni. Fino a poco tempo fa ho vissuto in una zona che ha gravi problemi dovuti soprattutto al fatto che non c'è lavoro. Ho fatto il fornaio da quando avevo 16 anni. Fino a qualche anno fa vivevo bene. Certamente non ero ricco, ma non mi mancava nulla e aiutavo anche economicamente la mia famiglia. Poi il forno dove lavoravo ha chiuso e mi sono trovato a 24 anni completamente senza lavoro e allora ho cominciato la trafila degli uffici per l'impiego. Ogni giorno un curriculum, ogni giorno un colloquio. Trovavo al massimo un lavoro come sostituto di qualcuno che era malato, ma il periodo di lavoro più lungo nell'ultimo anno è stato di 21 giorni, con interruzioni anche di 2 mesi. In pratica sono tornato a dipendere in tutto dai miei genitori, che fanno quello che possono ma non navigano nell'oro. Girando per varie agenzie in cerca di lavoro, ho trovato anche tanti ragazzi che stavano peggio di me. Ragazzi che in un anno lavoravano al massimo un paio di mesi e qualcuno aveva anche la famiglia da mantenere. La storia che voglio raccontare comincia in un'agenzia di collocamento. Una mattina arrivo all'orario di apertura per prendere i numeri per la fila e davanti a me c'è un ragazzo che mi sembra simpatico e mi sembra anche un bel ragazzo. C'eravamo solo noi e lui mi chiede delle informazioni su come funziona il collocamento. È evidente che è la prima volta che va in un'agenzia per l'impiego. Entriamo, prendiamo i numeri e ci mettiamo seduti ad aspettare e inevitabilmente parliamo un po'. Mi dice che ha 22 anni e che ha fatto solo piccoli lavori in nero e per pochi giorni. Lui non sa nemmeno chi sia suo padre. La madre gli ha detto che il padre non lo ha voluto riconoscere, che lei non aveva i soldi per gli avvocati e che è finita così, ma forse è pure meglio. La madre è invalida e vive con una pensione minima e stanno proprio in brutte condizioni. Mi chiede se sono sposato e gli dico di no. Mi dice che veramente ha un bisogno disperato di trovare un lavoro e mentre lo dice è profondamente turbato, quasi sul punto di mettersi a piangere. Cerco di confortarlo un po', ma è molto scosso e depresso. Va al colloquio prima di me, poi vado io. Quando ho finito, vedo che è rimasto lì ad aspettarmi. Usciamo insieme, sono circa le 10 del mattino. Io dovrei andare a prendere il treno per tornare a casa, ma vedo che lui mi segue sempre. Gli chiedo se deve tornare a casa, mi dice che non ci vuole andare. Facciamo un bel pezzo di strada insieme e ce ne andiamo in riva al mare. Ci sediamo sulla sabbia e cominciamo a parlare, ma lui si mette a piangere e io non so che fare. È proprio disperato. Cerco di capire perché, ma è difficile. Dopotutto, anche io sono disoccupato, ma non mi prende l'angoscia in quel modo. Non capisco perché mi segue. In fondo abbiamo solo fatto 2 chiacchiere all'agenzia di collocamento. Parliamo, io cerco di capire, ma i silenzi sono più delle parole, sia da parte sua che da parte mia. Verso 1 gli dico che devo tornare a casa e devo andare a prendere il treno. Mi chiede se può venire con me. Con questa espressione apparentemente così semplice mi mette in difficoltà. Lui è un bel ragazzo, ma si comporta in un modo strano che mi allarma. Ho conosciuto tanti ragazzi, ma mai uno che si comportasse come lui. Mi sento in forte imbarazzo. Penso di non avere capito esattamente che cosa vuole da me. Gli spiego che io gli direi di venire con me, ma poi non saprei che cosa dire ai miei genitori. E lui mi dice: non partire subito, dammi mezz'ora, soltanto mezz'ora. Io gli dico che va bene. Ci sediamo sul piazzale della stazione e comincia a raccontarmi la sua storia. Lo chiamerò Christian. Comincia col dirmi, in pratica, che lui è gay. Io non me l'aspetto, non ci si aspetta una cosa simile. Mi sembra assurdo che uno lo dica a una persona che conosce da poche ore. Comunque non faccio commenti. Poi capisco che quella era solo la premessa. Continua dicendomi che nel suo paese c'è un posto dove i ragazzi vanno a prostituirsi e che lui non c'era mai andato, ma aveva bisogno di soldi. E allora là c'è andato due volte. La prima volta aveva fatto un po' di soldi, ma la seconda volta lo avevano picchiato e gli avevano rubato tutto. Si è alzato la maglietta ed era coperto di lividi perché lo avevano preso a calci mentre stava per terra. Aveva paura di tornare al paese perché quelli che lo avevano picchiato erano gente pericolosa. La cosa mi sembrava piuttosto improbabile e io stentavo a crederci, ma i lividi erano evidentissimi ed era stato picchiato selvaggiamente, di questo non c'era alcun dubbio. Dopo aver finito il suo discorso era molto ansioso e non sapeva che cosa aspettarsi da me. Gli ho detto: andiamo a fare il biglietto. In treno lo vedevo in imbarazzo tremendo. Allora ho fatto un passo rischioso e gli ho detto: se non ci aiutiamo tra noi. Lui ha capito immediatamente e ho visto come un lampo nei suoi occhi. Io nel frattempo pensavo a che cosa avrei potuto dire ai miei genitori, che non sapevano neppure che io fossi gay. Dovevo comunque trovare rapidamente una soluzione. Arrivati sotto casa, dico a Christian di aspettarmi perché devo parlare con i miei genitori. Mia mamma non lavora e papà è in pensione. Stanno in cucina guardando la televisione. Io ho detto: voi mi volete bene? Loro hanno risposto: certo. E io ho detto: allora adesso me lo dovete dimostrare. Papà ha spento la televisione e mi ha detto: ma che è successo? Io ho detto: ci sono due cose che vi devo dire. Parto da quella più facile. Io sono omosessuale. Mamma stava per parlare, ma papà ha fatto un cenno con la mano come per dire: andiamo avanti e vediamo la seconda cosa. E io ho raccontato la storia di Christian e di come l'avevo conosciuto. Mamma mi voleva mettere in guardia, ma papà ha detto: ma adesso dove sta questo ragazzo? Io ho detto che stava in strada e papà ha detto: fallo salire. Sono sceso. Christian si aspettava una risposta negativa, ma gli ho fatto cenno di salire. Io posso dire di avere due genitori meravigliosi. Papà ha cercato di capire esattamente come stavano le cose mentre mamma apparecchiava la tavola. Il racconto di Christian era molto preciso e papà si è convinto e gli ha creduto. Christian ha fatto vedere anche a mio padre i lividi ed era evidente che lo avevano proprio massacrato di botte. Quando Christian era sul punto di mettersi a piangere, papà lo rimproverava in un modo un po' rude e Christian si calmava. Siamo stati a parlare tutto il pomeriggio. Man mano che veniva sera, Christian cominciava ad avere paura di tornare a casa sua. Poi papà lo ha capito e gli ha detto: vuoi stare qua stanotte? Christian ha risposto: magari. Papà ha aggiunto: dove ci stanno tre persone ce ne possono stare pure quattro. Ma tua madre la puoi avvisare? Lui ha detto che aveva il cellulare e la poteva chiamare, ma aveva finito il credito. Ha chiamato col mio cellulare e ha detto alla madre che non sarebbe tornato per la notte. La madre era agitata, ma poi lui è riuscito a calmarla. La mia storia con Christian è cominciata così. Io provo sentimenti di profonda gratitudine per i miei genitori, perché quello che hanno fatto per me e per Christian va al di là dell'immaginabile. Mi sono sentito sostenuto con forza, in particolare da mio padre. Ho percepito il suo rispetto e il suo affetto senza condizioni e Christian è rimasto affascinato da mio padre. Lui non ha avuto un padre e vedere come si è comportato mio padre gli ha fatto un effetto fortissimo. Mio padre l'indomani ha accompagnato Christian in città a fare il test HIV e Christian lo ha presentato come suo padre. Il test è risultato negativo e d'altra parte Christian ha usato sempre il preservativo. Comunque poi ha rifatto il test ed è venuto negativo un'altra volta. Christian è rimasto praticamente a vivere a casa mia. Dopo circa 6 mesi ci hanno detto che in un'azienda alimentare in Emilia cercavano esperti panificatori. A me hanno fatto un contratto a 6 mesi e a lui uno di formazione. Poi le cose si sono messe meglio. Abbiamo continuato a lavorare lì in provincia di Modena. Avevamo preso in affitto una stanza vicino all'azienda e parlavamo sempre con i miei genitori via Messenger e Christian mandava un SMS alla madre tutti i giorni. Poi, il 20 di maggio di quest'anno, era di domenica, e noi facevamo il turno di notte per preparare le forniture per le pasticcerie che dovevano partire entro le 5, quando alle 4 in punto, arriva il finimondo, la terra ci balla sotto i piedi, scricchiola tutto e cadono giù pezzi di soffitto, scappano tutti fuori. Per fortuna, noi due eravamo vicini. Il panico è stato terribile, almeno finché non siamo riusciti a uscire all'esterno. Eravamo terrorizzati che potesse crollarci tutto in testa. L'edificio aveva retto, ma non sembrava in buone condizioni. Dopo qualche ora è arrivata la protezione civile e ha messo i sigilli perché dovevano passare i vigili del fuoco. Una parte degli edifici è stata dichiarata non agibile, ma con l'aiuto dei vigili del fuoco abbiamo trasferito i macchinari nella zona agibile e dopo 8 giorni abbiamo ripreso la produzione. Sembrava tutto superato, ma il 29 maggio, verso l'una in pieno giorno, c'è stata un'altra scossa violenta di terremoto. Christian non stava con me, ma in un altro reparto. Io sono uscito di corsa per andare a cercarlo. Credo di non essere stato mai così terrorizzato. Ho visto un polverone alzarsi dall'edificio in muratura che era stato lesionato alla prima scossa, poi ho visto Christian che correva anche lui verso la palazzina che era crollata. Per fortuna la palazzina era proprio quella già lesionata e non c'era nessuno. Ci siamo abbracciati strettissimi. Eravamo vivi tutti e due. Per un attimo ho pensato che se Christian fosse morto, anche la mia vita sarebbe finita. Poi abbiamo dovuto aspettare di nuovo la protezione civile e i vigili del fuoco. L'edificio dove erano i macchinari è stato dichiarato agibile e abbiamo ripreso la produzione. In tutta l'azienda siamo una ventina e abbiamo lavorato tutti, dalla mattina alla notte, per fare ripartire la produzione. I proprietari, una famiglia di Modena, pensavano di chiudere la fabbrica perché in pratica metà degli edifici era crollata. Però la gente dell'Emilia è veramente eccezionale e abbiamo fatto miracoli. L'azienda non ha chiuso e ormai abbiamo ripreso quasi a pieno ritmo. Per tutto il periodo del terremoto i nostri genitori sono stati molto preoccupati perché nei momenti peggiori non c'era neppure la possibilità di telefonare perché tutto era monopolizzato dalla protezione civile. Dopo la seconda scossa è crollata anche la casa dove io e Christian avevamo una stanza e abbiamo perso tutto quello che avevamo con l'eccezione del denaro che portavamo sempre con noi. Abbiamo perso anche il PC per tenerci in contatto con i genitori. L'azienda ci ha dato una tenda e l'abbiamo piantata nel piazzale interno. Al tempo del terremoto ho capito quanta forza e quanto altruismo ha Christian. Finito il lavoro, ce ne andavamo a cucinare ai campi di tendere la protezione civile e stavamo lì fino alla sera. L'azienda non ha licenziato nessuno. Ci siamo contentati tutti del salario minimo, ma abbiamo continuato a lavorare tutti. Project. La sera, quando abbracciavo Christian stretto, mi sembrava così bello essere vivi, così bello potersi stringere forte, anche se sotto una tenda e anche se in un paese terremotato. Adesso siamo ancora in quell'azienda e penso che ci resteremo perché per noi è diventata come una famiglia. Ci siamo aiutati l'uno con l'altro per fare fronte alla difficoltà, è stata una cosa bellissima. Project, io sono felice, mi sento un uomo completo e so di avere vicino un uomo che vede il mondo come lo vedo io, un uomo onesto, leale, altruista, che si merita la felicità. Sono stato incredibilmente fortunato. Christian ha cambiato la mia vita. Questa è la voce del progetto, una voce libera e larga.